Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Cadere, distendersi a terra, restare ai piedi di tutti, dare manifestazione pubblica di non aver più forza, queste sono le umiliazioni alle quali hai voluto sottoporti. Signore, per mia edificazione. Nessuno ha avuto compassione di te, hanno raddoppiato le ingiurie e i maltrattamenti, e intanto la tua grazia sollecitava invano un moto di pietà nell'intimo di quei cuori di pietra. Anche in questo momento hai voluto proseguire la tua passione per salvare gli uomini. Che uomini? Tutti, anche quanti in quel momento stavano accrescendo in tutti i modi il tuo dolore. Nel mio apostolato, Signore, dovrei continuare anche quando tutte le mie opere fossero abbattute, anche quando tutti si mettessero insieme per attaccarmi, anche quando l'ingratitudine e la perversità di coloro a cui voglio fare del bene si volgessero contro di me. Non avrò la debolezza di mutare strada per far loro piacere. Le mie vie possono essere soltanto le tue, cioè le vie dell'ortodossia, della purezza, dell'austerità. Ma sulle tue vie soffrirò per loro e continuerò a far loro del bene, unendo i miei dolori imperfetti al tuo dolore perfetto, al tuo dolore infinitamente prezioso, perché si salvino, oppure perché le grazie rifiutate si accumulino su di loro come carboni ardenti che chiedono punizione. È quanto hai fatto con il popolo dei Cida e con tutti coloro che ti hanno rifiutato fino alla fine.